E ciao a tutti e a tutti, bentrovati e bentrovati. Martedì 16 gennaio, ore 21, Note Cose Città, Special Night Edition. Abbiamo fatto qualche minuto di ritardo oggi, ma tra non andare in onda e andare in onda alle 21 abbiamo preferito questa opzione. 0649 17 50, onda rossa chiocciola ondarossa.info, e sul sito www.chiocciolaondarossa.info potete ascoltarci in streaming e potete cliccare sul tasto sostieni per sostenere la radio. E quindi a dicembre non è riuscito a diventare il direttore di Rolling Stones Italia, ma si è preso una bella vendetta, cara selvaggia. Perché da questa settimana inizierà la collaborazione di Fabio con una prestigiosa rivista del settore di pesca, la rivista di pesca per eccellenza. La rivista si chiama Il Pescatore e Fabio diventerà una delle firme di lusso di questa rivista già a partire... già a partire da domani. Curerà una rubrica che cercherà di mettere in relazione la musica e la pesca, per l'esattezza la musica punk e la pesca. La rubrica si chiamerà Punk a pesca. Complimenti Fabio, un nome magnifico. Voi comunque in casa mi prendo la rivincita, non la vendetta. È una rivincita perché noi non portiamo odio e rancore. E vuoi accennare qualche stralcio del tuo primo articolo in cui si parlerà del rapporto tra New York Dolls e Trote Salmonate? Mettila. No, più che altro annuncio, spiego che facciamo oggi. Cioè oggi il luogo che abbiamo scelto, che andiamo diciamo a visitare, è un non luogo, oppure tanti luoghi. Abbiamo scelto i fiumi. Quindi sarà una puntata molto liquida, ci lasceremo trascinare dalla corrente, dalle tante storie di fiume che abbiamo pescato in rete, e d'altronde basta fare una ricerca su Google e scrivere river, song o fiume per essere travolti da centinaia di risultati. La parola, esistono centinaia di canzoni con la parola river nel titolo, per non dire dei testi. Quindi abbiamo scelto fiumi fisici, reali, oppure fiumi che sono metafore, fiumi della mente, fiumi testimoni di fatti di cronaca, o ancora fiumi che sono panorama di amori che vengono a galla, oppure di amori che affondano, che vengono trascinati via. Lungo i fiumi sono nate civiltà, lungo i fiumi sono compiuti orribili massacri, lo vedremo e lo ascolteremo. Il fiume è memoria, è futuro, è il luogo di incontro, è vittima dell'uomo con l'inquinamento e con tante altre schifezze. Allo stesso tempo il fiume a volte dipende delle rivincite e diventa rivincite, poi forse non so se è la parola corretta, e diventa devastazione. E allora noi iniziamo. Intanto volevo fare un saluto alla piccola Giorgia che ci sta ascoltando da un letto d'ospedale. Però ciao, noi Giorgia. Cominciamo con invece un battello, cominciamo con un po' di musica allegra, un battello che è pronto a salpare lungo il Nilo, la direzione è quella del Cairo, al timone c'è un gruppo inglese e questa è Nightboat to Cairo, loro sono Madness. We'll be right back. E questi erano i Madness, Naibo to Cairo. Un saluto al nostro amico Massimo Palma. Massimo, ti aspettiamo quando vuoi, eh? E allora, John Fogerty, chitarrista dei Creedence Clearwater Revival, si è recentemente scagliato contro i produttori di un film in uscita tra poco, che si chiamerà Proud Mary, come il titolo di uno dei pezzi più famosi di Creedence. Il film racconterà la storia di un'assassina e Fogerty ci tiene a sottolineare che la canzone non ha nulla a che fare con la sua Proud Mary. Fogerty ha dichiarato il significato della canzone: scrissi quella canzone su un mitico battello che solcava un fiume mitico in un'epoca mitica. Forse l'ambientazione era indietro nel tempo, sul fiume Mississippi. Era ovviamente una metafora sul lasciarsi alle spalle i problemi, lo stress e i dolori per una vita più tranquilla e significativa, molto lontana da una storia di omicidi fatti per denaro. E allora noi ce l'ascoltiamo questo bel pezzo, forse il pezzo più famoso dei Creedence, Proud Mary. Questa era Proud Mary dei Creedence. Restiamo in America, restiamo su un'imbarcazione più piccola di un battello questa volta, ed è il fiume è l'Ohio, e questa volta la barca viene usata non è il battello che navigava il Nilo dei Madness, non è neanche la Proud Mary, è una piccola barca, un barchino che il cantante, in questo caso è Will Oldham, e dove ambienta la sua canzone. La canzone è una canzone d'amore, una canzone di un uomo infelice che stacca dal lavoro, che prende la sua barca e immagina una donna che in realtà non esiste, Catarina. Quindi una canzone, volendo, parecchio triste, ma che musicalmente non lo è affatto. Non è così triste. È il primo singolo di Will Oldham, è uscito nel 93 sotto il moniker Palace, perché Will Oldham cambierà spesso nome: Palace, Palace Music, Palace Song, Bonnie Prince Billy. però non viene messa in nessun disco ufficiale, anche se è una canzone molto bella e molto amata, e fino al 97 quando entra come prima traccia in una raccolta chiamata Lost Blues and Other Songs, poi ancora ricompare in una raccolta, questa volta sotto il nome di Bonnie Prince Bill, completamente riarrangiata, ed è la versione che ascoltiamo ora. Buon ascolto. When it's time from work to go, and in my boat I row across the muddy old high-o, when the evening light is falling, and I look towards Floyd's Knob, where the after glories glow, and I dream on two bright eyes with a merry mouth below. She's my Miss Katerina, she's my joy and sorrow too. Though I know she is not true, oh, I cannot live without her, for my heart's a boat in tow, and I would give the world to know if she means to let me go as I sing the whole day. Has more beauty, I declare, than all the tresses fair from Smoketown to Oldham County, be they black, red, gold, or brown. Let them hang to lengths below, they mean not as much to me as a melting flake of snow. And her dance is like the gleam of the sunlight on the stream, and the screeching blue jays seem to form a name when screaming, but my heart is full of woe, for last night she made me go, and the tears begin to flow as I sing the whole day through. And her dance is like the gleam of the sunlight. E l'ho tagliata proprio brusca, brusca, brusca. Ma tant'è, solo un attimo. Allora, nel gennaio del 1981, in Gallura, Marco Lattoneddu registra un piccolo audio di una battuta di caccia al cinghiale per Fabrizio De André. E quest'audio entrerà nell'introduzione di una canzone dal titolo Fiume San Cric, contenuta nell'album Fabrizio De André, che è anche conosciuto come l'album dell'Indiano. In tutto l'album ricorre un parallelismo tra il popolo sardo e i nativi americani. In Fiume San Cric, De André racconta attraverso gli occhi di un bambino una delle pagine più buie della storia degli Stati Uniti, ovvero il massacro degli oltre 180 Cheyenne avvenuto all'alba del 29 novembre del 1864, i Cheyenne che si erano proprio insediati sulle rive del fiume San Cric. Oggi la tribù dei Cheyenne esiste ancora, è molto piccola, vive in condizioni penso abbastanza terribili, ma ha continuato la sua lotta, la sua resistenza, e continua ancora quindi ad esistere. Ci viene naturale pensare che probabilmente De André, utilizzando il fiume come testimone di un avvenimento, in questo caso di un massacro, voglia omaggiare e forse incitare il popolo sardo, che probabilmente è quello che meglio conserva e tramanda la propria tradizione non solo culturale ma anche linguistica e musicale. Una curiosità: nel 1992, in occasione dell'Expo di Genova, che fu creato per l'occasione, per la ricorrenza dei 500 anni della scoperta dell'America, e prese il nome di Colombia, ci furono una serie di eventi, di manifestazioni, una di queste doveva essere un concerto che vedeva sullo stesso palco De André e Bob Dylan, ovviamente De André a rappresentanza dell'Italia e di Genova in particolare, e Bob Dylan per gli Stati Uniti. Dylan canterà, mentre De André invece si rifiuterà di partecipare e disse proprio: e non celebro un massacro. Non credo che Bob Dylan sappia di dover cantare proprio lì, anche lui appartiene a una razza piuttosto perseguitata e dovrebbe rinunciare. Colombo era un genio della navigazione, ma certo non poteva immaginare i massacri che seguirono la sua scoperta. O forse, continua De André, come tutti i geni, non era troppo intelligente e non è riuscito a immaginarli, anche se da alcuni documenti risulta che i primi deportati, non so se con carezze o con bastonate, viaggiarono proprio sulle sue navi e la Chiesa spagnola non era affatto d'accordo. Poi anche la Chiesa ha fatto la sua parte. E questo è Fiume San Creek, Fabrizio De André. Son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Sand Creek. son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Saint Creek. Questo era Fabrizio De André, grazie per tutti i trillini. Vi ricordo che questa è sempre Note Cose Città Special Night Edition, e Fabrizio De André che non potevamo non passarlo, visto che qualche giorno fa, l'11 gennaio, abbiamo ricordato i 19 anni e dalla morte. E dopo Faber restiamo abbastanza in tema, non solo perché continuiamo a parlare di fiumi, ma perché continuiamo sul filone, diciamo così, indiano, nel senso che andiamo lungo le rive del lungo il Cuyahoga. Il fiume lungo cui è nata la Cleveland che abbiamo raccontato nella Rock and Roll Hall of Fame nella puntata precedente. Su questo fiume, che il nome indiano significa fiume tortuoso, è un fiume che è cantato e presente in tantissime canzoni americane, e non a caso, non certo per la sua bellezza. È così presente nel rock, nel folk, nel blues in America, perché questo fiume per tutto il Novecento fino alla fine degli anni 60 era così inquinato che lungo la sua superficie avvenivano esplosioni e roghi causati dagli idrocarburi e da altri prodotti chimici infiammabili. L'ultimo grande incendio, avvenuto nel 69, ha portato a un provvedimento legislativo molto importante negli Stati Uniti, che si chiama Clean Water Act, e grazie tra virgolette a questo ennesimo accadimento lungo il fiume Cuyahoga è nata l'EPA, l'agenzia americana che si occupa di protezione dell'ambiente, che in questi mesi Trump sta facendo a pezzi. Tra i tanti che hanno cantato del Cuyahoga abbiamo scelto due artisti. Il primo è un gruppo, sono i REM. I REM, il loro pezzo omonimo è dell'86, è un pezzo che viene considerato, scusate che sta passando un'ambulanza qua sotto, la polizia non lo so, e pezzo considerato un vero e proprio inno ecologista, e un pezzo di REM che dicevo viene considerato un inno ambientalista ecologista, perché basti pensare all'attacco del pezzo che dice uniamoci e costruiamo un nuovo paese. E niente, troppe chiacchiere e andiamocelo ad ascoltare. REM. Swim, we need skin in you and me. Fun. tree up underneath the riverbed. Burn the river down. This is where they walked, swam, hunted, danced, sang. Take a picture here. Take a souvenir. Questi erano i REM e noi andiamo avanti con un momento che Fabio ha fortemente voluto. Fabio, però mi stai tagliando un pezzo a me. Perché? C'è Randy Newman. C'è Randy Newman? Ah, scoop. Ho sbagliato. Restiamo sempre lungo lo stesso fiume, come dicevo prima, il Cuyahoga per questi incendi che si autoalimentavano, è stato un fiume tanto, tanto cantato nella musica statunitense. In questo, prima ancora di REM, a cantarlo è stato Randy Newman, poco conosciuto in Italia, ma cantautore, pianista, compositore, arrangiatore, noto per le sue canzoni mordaci, satiriche, e per le sue numerose colonne sonore, fra l'altro anche, per dire qualche scemenza, anche Toy Story. E la canzone quindi è stata scritta agli inizi degli anni 70 e parla dell'incendio del 69 di cui parlavamo prima, quello che ha dato il via finalmente ai provvedimenti e alla nascita dell'EPA. E qui Newman gioca con un gioco di parole, la canzone si chiama Barn On, e si prende un po' gioco delle canzoni folk americane che ripetono spesso Roll On, Big River, Roll On. Qui Roll On diventa Barn On e niente. E buon ascolto. There's a red moon rising on the Cuyahoga River, rolling into Cleveland to the lake. There's a red moon rising on the Cuyahoga River, rolling into Cleveland to the lake. There's an oil barge winding down the Cuyahoga River, rolling into Cleveland to the lake. There's an oil barge winding down the Cuyahoga River, rolling into Cleveland to the lake. Cleveland, city of light, city of magic. Cleveland. walking through my dreams. Burn on, big river, burn on. Burn on, big river, burn on. Now the Lord can make you tumble, the Lord can make you turn, the Lord can make you overflow, but the Lord can't make you burn. Burn on, big river, burn on. Burn on, big river, burn on. E allora noi andiamo avanti, ringrazio chi ci ha chiamato poco fa, intanto per la richiesta di Neil Young, speriamo di riuscire ad accontentarti, poi, e ci dicono che sembra che numerose accademie stanno avendo dei dubbi che il Colombo che ha scoperto l'America sia effettivamente Cristoforo Colombo. Io onestamente non ne so niente. Fabio, tu ne sai qualcosa? No, assolutamente no, niente. Se qualcuno insomma c'ha altre informazioni su questo, 0649 1750. E noi andiamo avanti con un pezzo dove adesso il fiume è testimone d'amore. Fabio è un grandissimo appassionato di film d'amore, lui rivede Ghost praticamente a rotella. Ah, sì, a rotella, a cicli mensili, lui Ghost. E quello che ci ascoltiamo è Il fiume della luna, cantato da Audrey Hepburn in colazione da Tiffany, composta da Harry Mancini. La canzone che diventerà è famosissima, è uno standard della grande canzone americana, interpretato da praticamente tutti: Armstrong, Sinatra, Sarah Vaughan, anche i Rem e tantissimi tantissimi altri. La versione che ci ascoltiamo è quella chitarra e voce a una piccola orchestrazione soltanto nel finale, che entrerà nella colonna sonora ufficiale del film solo dopo la morte di Audrey Hepburn. Il pezzo è Moon River e questa è Se e Città. In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me. Audrey Hepburn, però Fabio non mi puoi sempre piangere. No, hanno fatto, non anche, puoi sempre piangere, hanno fatto anche un trillino, però insomma si riparte asciugati, mal tormento. Asciugati, asciugati la lacrima. Vai, vai, vai. Allora, cercando, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, basta cercare in rete, si trova una valanga di roba, una valanga di canzoni con The River nel titolo. La canzone più famosa probabilmente è quella di Joni Mitchell, che abbiamo scelto di non mettere, perché è legata al Natale, anche se di Natale non parla, ed è una canzone tristissima, in quel caso di non che inizia con un jingle bell in tonalità minore. Questo è fatta più di 400 cover, insomma, però abbiamo scelto di non metterla. L'altro pezzo che viene subito in mente, almeno a me e spero a tanti come me, è The River di Bruce Springsteen. The River fa parte del disco omonimo, e sta perfettamente a metà del disco, cioè chiude la prima metà e la chiude in maniera commovente davvero, no? Come Moon River di Audrey Hepburn, scherzo, ovviamente Ale. E qua Springsteen, il fiume qui non è solo metafora, il fiume è il luogo lungo cui nasce un amore che diventa una gravidanza prematura, che diventa un matrimonio riparatore, che diventa fonte di infelicità, e quindi il boss immagina il narratore del pezzo, insomma, lungo il fiume della sua giovinezza, lo immagina, non lo immagina, e ora in secca lui, ma più che, scusate, più di quello che dico io e dico male, vi leggo quello che ha scritto Portelli su questo. Fortelli, grande appassionato di Bruce Springsteen, è la storia del manovale della Johnston Company che sposa Mary per riparare a una gravidanza prematura, che passa la vita a ricordare i momenti felici della propria giovinezza, che ormai lo tormentano come una maledizione, il ricordo di quando l'amore era innocente e scorreva rapido come quel fiume, e ancora la medica della crisi e quel giudice che mise tutto in regola, quelle nozze riparatrici senza corteo nuziale, senza fiori né abito da sposa. Allora la malinconia che nasce stando al lato di quel fiume ormai in secca è il principio vitale che spinge ogni uomo a continuare a vivere. I come from down in the valley where, mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my went down to the river, then into the river we died. Oh, down to the river we did ride. Yeah, job working construction for the Johnston Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Though I know the river is dry, that sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby. Questa era The River del Boss. Cambiamo continente, torniamo in Europa, in Inghilterra, e il pezzo scelto è Down by the Water di PJ Harvey, un pezzo stupendo tra i più noti di Polly Jean. Il testo è abbastanza tremendo perché in questa canzone PJ Harvey racconta di una donna che uccide la propria figlia. E nella parte finale della canzone è abbastanza agghiacciante, PJ Harvey sussurra una frase che poi prende da una canzone, da un pezzo di un pezzo tradizionale della musica folk americana, e salti di dog blues, e questo ritornello che ripete in continuo dice: little fish, big fish swimming in the water, come back here, man, give me my daughter. Cioè chiede a un grande pesce di riportare a galla sua figlia, e non credo che sia stato possibile. Down by the water, PJ Harvey. I lost my heart under the bridge to that little girl, so much to me, and now I'm old. Blue-eyed girl, she said no more. She said no more. Questa era PJ Harvey. Allora, solo un attimo per ripristinare le sofisticate attrezzature e ricominciare poi a mettere musica. E noi andiamo avanti con il prossimo gruppo, o meglio un super gruppo formato dai componenti di Alice in Chains, Screaming Trees, Pearl Jam e Walkabouts. Loro sono i Mad Season, un solo bellissimo album all'attivo, Above, del 1995, che conteneva il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, River of The Seat. Il fiume in questo caso segue una sola direzione, spinge verso il basso, sempre più giù, e il fiume è l'eroina che ucciderà poi il cantante della band. Loro sono i Mad Season e il pezzo si chiama River of The Seat. Now I questi erano i Mad Season, vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Uno delle cose città in questo orario un po' inconsueto, e io ringrazio la nostra ascoltatrice Milton che ci chiede A Change Is Gonna Come di Sam Cooke, che era uno dei pezzi che dovevamo mettere in scaletta. Il pezzo inizia proprio I Was Born by the River, e Sam Cooke che era nato proprio in Mississippi, in una città sulle rive del fiume. Abbiamo tagliato anche gli Art Decore e la loro versione del Barcarolo Romano, più tante altre cose, Fabio. Una valanga di tagli, ma andiamo avanti e vediamo che siamo riusciti. Cosa a hai scelto fuori per noi? Adesso è un gruppo americano, ma poi di fatto in America non fa musica, fanno musica, fa base a Londra, e sono forse molto più conosciuti in Italia che altrove. Il gruppo si chiama Sofia, e la canzone che abbiamo scelto si chiama The River Song. Qui la storia, c'è poco da dire in realtà. Il testo dice abbastanza semplicemente che il protagonista, il narratore, vuole andare in un fiume, vuole andare lungo un fiume per cercare qualcuno che lo protegge da se stesso e da quello che è diventato. È diciamo un pretesto per sentire un gran bel pezzo che credo che si passi poco in radio, cioè, si passano poco proprio bene. I Sofia in generale. E che altro dire, che il pezzo è bellissimo e che anche musicalmente forse lo ricorda un po' un fiume. Sofia. Questi erano i Sofia River Song. Cambiamo un'altra volta continente, torniamo in America, torniamo lungo il Mississippi, che già più volte è stato nominato durante questa puntata. La canzone che ascoltiamo si chiama Louisiana 1927, una canzone, appunto, Louisiana 1927, una canzone scritta da Randy Newman, ma non ascoltiamo Randy Newman, di cui abbiamo parlato prima. La canzone racconta l'alluvione, appunto, del 1927, che ha colpito New Orleans, un'alluvione terribile e che ha lasciato più di 700.000 persone senza una casa. E nel testo, oltre a raccontare il fatto in sé, il testo è anche una denuncia del disinteresse del governo federale, e proprio per questo motivo la canzone verrà cantata dopo Katrina, quindi pochi anni fa, diciamo. E verrà cantata da Aaron Neville, una delle voci più amate e più importanti di New Orleans. Lui ne farà una cover, e questa cover diventerà di fatto il pezzo alle orecchie di chi l'ha ascoltato dopo Katrina. Parlava di quello, parlava ancora una volta della potenza devastatrice del Mississippi, e cambiamenti climatici o meno, e parlava dell'immobilismo e del menefreghismo di Washington. E la canzone Louisiana 1927. What has happened down here? Is the wind have changed? Clouds rolled in from the north and it started to rain. It rained real hard and it rained for a real long time. 6 feet of water in the streets of Evangeline. The river rose all day, the river rose all night. Some people got lost in the flood, some people got away all right. The river had busted through, cleared out the plague of mine. 6 feet of water in the streets of Evangeline. They're trying to wash us away. They're trying to wash us away. Oh, Louisiana, Louisiana. They're trying to wash us away. They're trying to wash us away. President Coolidge has come down railroad train. Little fat man with a notepad in his hand. President say, little fat man, oh, isn't it a shame what the river had done to this poor farmer's land. Oh, Louisiana, Louisiana. You're trying to wash us away. You're trying to wash us away. Oh, Louisiana. Oh, Louisiana. You're trying to wash us away. Oh, Lord. You're trying to wash us away. You're trying to wash us away. You're trying to wash us away. Stupenda, era Aaron Neville e Iron Maiden. Aaron Neville. E restiamo a New Orleans, restiamo, come dicevo prima, questa canzone è diventata un inno, forse inno è una parola adatta, ma insomma molti abitanti della Louisiana e di New Orleans in particolare si sono identificati con questa canzone. E Katrina, prima non ricordavo l'anno, era il 2005, non stiamo qui a raccontare che cosa è successo e la devastazione che ha portato il Mississippi e l'uragano, e Katrina appunto. E se non lo conoscete, ne ha fatto uno straordinario lavoro, lo racconta meglio di chiunque, e Spike Lee in un documentario lunghissimo, dura 4 ore, che si chiama When the Leaves Breaks, insomma quando si spezzano, quando si rompono gli argini, adesso non ricordo perfettamente il titolo. Nella, come sempre, come spesso capita, Spike Lee si accompagna con i suoi musicisti che l'hanno accompagnato lungo tutta la sua carriera, e qui ha chiamato Terence Blanchard, un trombettista, e Terence Blanchard ha scritto un pezzo clamoroso, stupendo, dura, è un po' lungo, dura 8 minuti, ma abbiamo scelto di farvelo sentire comunque, di non lasciarlo in coda. E il pezzo si chiama Leaves, e Leaves sta per argini, gli argini che Mississippi piegherà e spezzerà, e ascoltatelo perché dura 8 minuti, bello. Ma è veramente una meraviglia. E questo era Terence Blanchard, che meraviglia questo pezzo. E noi andiamo avanti perché siamo un pochino in ritardo come al solito, e restiamo sul Mississippi, a cui sicuramente in futuro andrà dedicata una puntata soltanto per lui. Andiamo avanti con un po' di blues, con quello che è chiamato il Delta Blues, tra i grandi protagonisti Robert Johnson, che abbiamo passato la scorsa settimana, Muddy Waters, Sonny Boy Williams, Elmore James e naturalmente il grande John Lee Hooker. Questa è Canal Street Blues. John Lee Hooker, Canal Street Blues, grazie per il trellino, ma stiamo troppo in ritardo. Vai Fabio, andiamo. Sto stomaco vuoto. Ah sì? Sì. Non so più. John Lee Hooker, il passaggio è abbastanza semplice, con Ali Farka Touré, bluesman anche lui, africano del Mali. Quando è diventato abbastanza famoso a livello internazionale dopo un disco fatto insieme a Ray Guter, Talking Timbuktu, e quando i giornalisti lo intervistavano lo mettevano molto a paragone con John Lee Hooker, lui evidentemente a un certo punto si è stancato e ha detto, credo con stima verso John Lee Hooker, ha detto: ok, John Lee Hooker e il blues americano sono i rami, io sono il tronco. E per spiegare, insomma, che lui ha abbastanza ovvia la spiegazione, sta comunque le radici, l'albero è ben piantato in Africa, in questo caso il fiume è cantato da Ali Farka Touré, il Niger, il fiume che attraversa anche il Mali, e il disco da cui abbiamo preso la canzone, che si chiama Ey Ghana, non so se si pronuncia così ma spero di sì, è tratto da un album che si chiama proprio The River. Ali Farka Touré. Thank you. Ekana, ekana Ekoi me da kata Malai ka koi me da kata Ekana, ekana Kaka kanu far kataka go fundo bombom kasi go fundo alipadi go fundo alai ga koi mena kada baba wafa koi hendo porchin kere go dodi alai ga koi mena kada Hekana, hekana Ye koi mena kada Ye koi mena kada Ye koi mena kada Ye koi mena kada E questo era il grande Ali Farka Touré. E noi siamo praticamente in chiusura, abbiamo tempo per un ultimo pezzo che annunceremo tra un attimo. Prima vi anticipo che nella prossima puntata avremo un ospite che noi lo conosciamo come Sir Max, ancora neanche ci conosciamo di persona, lui viene in qualità di esperto, parleremo del fantastico mondo dei plagi e della sottile linea tra il plagio e la citazione. Lui è baronetto, è stato proprio nominato qualche anno fa, Jeff Beck ha detto di lui è il Segovia della Garbatella, ma Aldi Meola, diciamo rosicando parecchio, ha detto sì, è un po' il mezza Segovia, questa è la polemica che c'è stata qualche anno fa. Oh Sir Max, noi ti aspettiamo, eh? E allora noi andiamo avanti con l'ultimo pezzo e ritorna Ray Cooder, perché è uno dei più grandi esploratori musicali e anche un grandissimo musicista di slide guitar, e incontra per questo, ecco, per questo ultimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, incontra Bhatt, che è un musicista indiano, perché ancora non abbiamo citato il fiume Gange. Bhatt è un suonatore di Mohan Veena, una strana chitarra anch'essa suonata con la tecnica slide, e insieme realizzano questo album che contiene una chiusura perfetta, e il pezzo si chiama Gange Delta Blues. E fate caso, durante l'ascolto è possibile che i volumi della canzone li sentirete che si alzano e si abbassano. In realtà loro è stata proprio una scelta precisa, perché l'album è registrato soltanto con dei microfoni senza missaggio. Adesso io non so, un solo microfono, sì. E non so adesso esattamente la tecnica di registrazione come si chiama, però segue quindi la musica, anche le dinamiche proprio dei musicisti. È un pezzo abbastanza lungo, però ascoltatelo perché è magnifico. Thank you. non ci eravamo neanche salutati. A martedì, ciao. Ciao. Fuego.